dai lati, se no non iniziamo. 5 minuti già sono quasi passati, eh? Presidente, sera. Scusate, se vi potete allontanare adesso, per favore. Come si chiama? Associazione della stampa estera in Italia. Come presidente dell'Associazione della stampa estera in Italia vorrei dare questa sera il benvenuto al dottor Silvio Berlusconi e ringraziarlo per aver scelto la nostra sede per illustrarci questa nuova iniziativa che ha tutta l'aria di essere un nuovo successo. E colgo anche l'occasione per ribadire tutto l'interesse che la stampa estera ha per le iniziative della Fininvest e soprattutto chiedergli forse un'ancora maggiore partecipazione e collaborazione con noi della stampa estera per mantenerci sempre informati delle vostre iniziative. Grazie. Ringrazio moltissimo, ringrazio anche da parte mia l'Associazione della stampa estera per l'accoglienza che oggi mi dà. Vediamo di trovare allora qual è tra questa serva di microfoni quello giusto. È questo? Scusate, ma per evitare che qualche registratore resti escluso, facciamo le cose per bene. Ecco, ringrazio, stavo dicendo, a mia volta l'Associazione della Stampa Estera per l'ospitalità che oggi ci ha concesso. E per quanto riguarda la nostra latitanza su qualche fatto della nostra attività che magari può anche avere un interesse non soltanto per il pubblico italiano ma anche per il pubblico di altri paesi, io mi scuso che forse alcune volte abbiamo mancato di essere presenti e di rispondere alle domande che da più parti ci venivano indirizzate. Ma c'è un proverbio in Italia che dice: non si può portare la croce e insieme cantare. E siccome ci accade di portare la croce, e in certi casi è una croce molto pesante per le tante attività che stiamo svolgendo, che sono quasi tutte attività che iniziano, aziende che partono e che noi inventiamo, gestiamo e sviluppiamo da zero, ci accade di non avere poi molto tempo, il tempo che sarebbe giusto dedicare all'informazione dei giornalisti. E in questo forse anche spiega questa nostra forse non capacità di avere una comunicazione continua, come certe volte circolino notizie che riguardano le nostre attività che non sono precisamente rispondenti a quella che è la realtà. Bene, io oggi mi sono permesso di disturbarvi per annunciare ufficialmente un avvenimento che è stato in parte già ripreso da alcuni giornali, ma in maniera appunto non pari al suo esatto essere, e cioè la avvenuta sottoscrizione tra il nostro gruppo e la televisione di Stato sovietica, Gosteleradio, di un contratto che per la prima volta consente alle aziende europee di trasmettere sulla televisione di Stato sovietica messaggi pubblicitari destinati a tutta la popolazione sovietica e provenienti dal mondo occidentale. Il contratto è stato firmato il giorno 29 aprile, venerdì scorso, presso la sede della Gosteleradio, la televisione di Stato sovietica. Al tavolo della firma c'era il nostro consigliere delegato, avvocato Vittorio Dotti, il dottor Dario Rivolta, che è mio assistente e assistente quindi della presidenza Fininvest per gli affari esteri, che è stato anche il project leader di questa iniziativa, e il dottor Giorgio Maino, vice direttore generale di Publitalia, la nostra concessionaria di pubblicità. Per quanto riguarda la parte sovietica, il contratto è stato firmato dal direttore degli affari esteri di Gosteleradio, il suo nome è Lazutkin, alla presenza di un personaggio politico che noi conosciamo bene, perché oltre ad essere stato per 8 anni ministro della cultura sovietica, è stato il presidente del comitato olimpico che ha organizzato i recenti giochi olimpici di Mosca, e cioè il ministro Popov, in rappresentanza della presidenza della televisione di Stato. Questo contratto, come contenuto, riguarda un periodo di 3 anni, con una prelazione per il periodo successivo, e prevede la possibilità di trasmettere messaggi promozionali sulla prima rete pansovietica, sulla seconda rete pansovietica e sulla rete sovietica didattica ed informativa. Per quanto riguarda altri particolari, mi sottoporrò poi alle vostre richieste. A mio parere, questo contratto presenta 2 grandi novità. Per la prima volta, infatti, la televisione sovietica programma in una maniera sistematica la pubblicità. Fino ad ora soltanto la pubblicità Progresso, le promozioni istituzionali di vari enti della vita sovietica avevano trovato posto in forma occasionale sulle reti televisive di Stato. Secondo, per la prima volta aziende occidentali possono raggiungere per la promozione della propria immagine, delle proprie tecniche di lavorazione, dei propri prodotti, la sconfinata popolazione sovietica. Vi ricordo che sono 280 milioni di persone, la prima rete copre il 97% del territorio, la seconda rete il 95%, e il numero di apparecchi televisivi attivi è vicino ai 100 milioni. Questa mattina ho avuto il piacere e l'onore di informare personalmente il Presidente della Repubblica Italiana Cossiga, e ho naturalmente informato il nostro governo nella persona del Ministro degli Esteri Andreotti, dando l'informativa ovviamente anche al Ministero per il Commercio Estero, ma il Ministro titolare è attualmente in Messico e quindi lo informeremo al suo rientro. Nei prossimi giorni abbiamo cominciato a fissare appuntamenti con i ministri degli esteri degli altri stati europei, per i quali il contratto prevede una nostra esclusiva, e incontreremo successivamente le associazioni industriali dei vari paesi, a partire naturalmente dal presidente della Confindustria. Ci rivolgeremo anche alle associazioni di utenti di pubblicità nei vari paesi, e poi cominceremo ad entrare nella operatività avendo degli incontri con le principali agenzie pubblicitarie europee ed internazionali. Questo contratto rappresenta una continuazione di quella che è la politica economica attuale dell'Unione Sovietica e di Gorbaciov. Come forse molti di voi sapranno, già 1 anno e mezzo fa c'era stato un grande cambiamento nei rapporti tra le industrie sovietiche e le industrie di altri paesi, attraverso la liberalizzazione della possibilità di tenere direttamente i rapporti commerciali per acquisti e per vendite tra i vari ministeri sovietici e un numero sempre crescente di aziende, mentre fino ad allora gli acquisti erano realizzati attraverso grandi centri di acquisto che operavano per tutte le aziende sovietiche e che anche in un certo modo facilitavano per le più importanti aziende occidentali i rapporti con questo sconfinato mercato. Da 1 anno e mezzo a questa parte il nuovo corso di politica interna dell'Unione Sovietica è andato verso una maggiore liberalizzazione del modo di operare delle aziende e verso una responsabilizzazione delle aziende stesse, che non sono più responsabili soltanto per quanto riguarda il prodotto, cioè la qualità e la quantità di prodotto, ma devono anche rispondere per quanto riguarda la loro capacità di fare profitti. Recentemente, il 29 di gennaio di quest'anno, una nota del Politburo, ha riabilitato la pubblicità, che veniva considerata un fatto capace di esistere soltanto in un regime capitalistico. Pur restando nella perfetta ortodossia marxista, la pubblicità è stata ritenuta come uno strumento valido per aumentare la concorrenza tra imprese e quindi migliorare la qualità del prodotto. Anche questo un passo avanti verso il raggiungimento del miglioramento della qualità della vita che pervade tutta l'attuale politica di Gorbaciov. C'è in più da notare come la scelta di un'azienda che fa parte dell'Europa stia a significare la volontà del nuovo corso russo di incrementare i rapporti economici e i rapporti sociopolitici con la comunità europea. Credo che voi sappiate le cifre di importazione dell'Unione Sovietica, sono cifre importanti, 88.000 miliardi di dollari, billion dollars, di cui 88 miliardi di dollari, di cui 10 soltanto da parte di paesi della comunità europea e 2 per quanto riguarda l'Italia. Ma purtroppo le esportazioni dall'Europa hanno in questo momento un trend negativo. C'è stata una riduzione del 14% l'anno passato rispetto all'anno precedente. Io credo quindi che questa iniziativa apra delle possibilità importanti a molte aziende europee che potranno, attraverso questa possibilità, contattare direttamente non soltanto la popolazione sovietica, ma anche tutte le aziende sovietiche che operano anche in terre molto lontane dal centro operativo di Mosca, che potranno quindi venire a conoscenza di tutte le novità tecnologiche, soprattutto, che l'Europa può offrire a questo mercato. Lascio a voi anche la valutazione e il commento più approfondito di cosa può significare ed esprimo soltanto la mia soddisfazione per il fatto che sia stata la nostra azienda, durante una trattativa che è durata un anno e mezzo, che è riuscita ad avere questa negoziazione, a portarla a termine e che si appresta ad operare con le sue sedi presenti in ogni capitale europea per fare un servizio che certamente speriamo sia produttivo per i nostri bilanci, ma che sarà altrettanto certamente produttivo per l'industria e per i prodotti della nostra Europa. Rimango a vostra disposizione per eventuali domande. Prego. Finlandia è fuori, no? Sì, no, in Finlandia cos'è? No? La ringrazio, ma devo smentirla, non è affatto vero, siamo persone mitissime. E io non posso evidentemente tracciare gli elogi del mio gruppo, ma direi che probabilmente è stata premiata la nostra perseveranza ed è stata fotografata la nostra presenza sul mercato della televisione e sul mercato della pubblicità. Lei conosce bene cosa è stata la televisione commerciale in Italia e come abbia potuto attraverso un'azione diretta e con sistemi anche innovativi far aumentare di molto quello che era la spesa della industria italiana in pubblicità. Siamo passati dallo 0,30 di qualche anno fa al quasi 1% sul prodotto interno lordo. Ecco, io credo e penso che da parte delle autorità sovietiche e della televisione sovietica ci sia stata una fotografia accurata del nostro modo di operare, della nostra situazione societaria, della nostra possibilità di entrare in tutti i mercati europei nei quali peraltro siamo già presenti, e quindi credo che la scelta nei nostri confronti sia dovuta a queste ragioni. Sì, beh, io credo che possiamo dire che c'è stata da parte nostra l'intuizione che potesse avvenire questa liberalizzazione, e poi evidentemente ci sono stati rapporti frequenti che non si tengono, come lei sa bene, con le istituzioni che non sono fatte di carne ed ossa, ma attraverso le persone che vivificano queste istituzioni, e nei pareri delle persone che noi abbiamo contattato c'era la speranza che questo potesse avvenire. È stato così e noi abbiamo raccolto i frutti. Prego. Non ho ben capito se questo contratto gli dà l'esclusività della pubblicità sulla televisione sovietica, cioè vuol dire che qualsiasi ditta europea che vuole farla pubblicità televisione sovietica passa. Sì, in questo momento sì. E abbiamo una clausola nel contratto che prevede che per ulteriori spazi aperti alla pubblicità noi avremo una prelazione. Per 3 anni, con la prelazione di rinnovo del contratto alla fine dei 3 anni, il che significa che se avremo lavorato bene continueremo a lavorare. All'esclusiva, ecco, non vorrei generalizzare. Il contratto è formulato in modo che esistono alcune fasce aperte alla pubblicità per trasmissioni pubblicitarie. Per tutte queste fasce noi siamo gli esclusivisti attraverso questo contratto. Se ci saranno ulteriori aperture di ulteriori fasce, noi abbiamo la prelazione. Sì, sono le indicazioni di fasce orarie di programma per quanto riguarda la televisione, la prima televisione, il primo canale, per quanto riguarda il secondo canale e per quanto riguarda la televisione didattica. Per la precisione, le fasce riguardano dei programmi che saranno appunto messi in onda dal secondo canale dalle ore 10 alle ore 14. Il primo canale dalle ore 16 alle ore 20 e il terzo canale dalle ore 22 alle ore 12. No, non c'è nessun paniere di prodotti, nel senso che noi possiamo evidentemente decidere quali saranno i prodotti da introdurre in questi programmi. Evidentemente ci saranno delle priorità di interesse, le priorità di interesse sono dovute a quelle aziende che hanno già dei rapporti commerciali in atto e ad aziende che sono, i cui prodotti sono particolarmente ricercati dalle esigenze dell'economia sovietica. Per quanto riguarda la forma di pubblicità, anche questa è la più varia, perché abbiamo la possibilità di fare degli spot di 30 secondi sino ad arrivare a degli spazi di 6 minuti con la possibilità attraverso dei filmati di pubblicità redazionale di attingere anche la quota di 20 minuti. Quindi direi soprattutto comunicazione d'immagine, perché è chiaro che non c'è nessun interesse alla pubblicità su certi prodotti fin quando questi prodotti non sono distribuiti e quindi non si trovano nei punti commerciali sovietici. Sì, questa è una domanda che ci stiamo facendo anche noi, perché il contratto è abbastanza articolato e quindi ci sarà una diversità a secondo del tempo, ma anche a secondo della formula pubblicitaria. Se sarà semplicemente uno spot istituzionale oppure una pubblicità redazionale. Il contratto è appena stato firmato, i nostri uffici hanno già cominciato a studiare il mercato, ma non sono ancora arrivati a formulare delle proposizioni certe. Sì, io non credo che interessi molto questo tipo di spot. Comunque la ringrazio del suggerimento e vediamo di incrementare le nostre vendite anche attraverso questa forma. Veramente mi scusi, ma non sono preparato a darle questa risposta e non vorrei dirle delle cose inesatte. Mi creda, non sono in grado perché dobbiamo ancora calcolare quello che è il costo dei filmati, il costo delle spese commerciali e quindi abbiamo per ora soltanto una componente di questo costo generale, che è la componente di pagamento all'Unione Sovietica, per la quale ci è stato chiesto di essere riservati. Guarda, l'offerta pubblicitaria, mi creda, non si può esplicitare in pochi prezzi sommari, perché le politiche di vendita della promozione e della pubblicità sono molto articolate. Dipende dalla quantità di spot, dipende dai periodi di utenza, dipende dall'ampiezza della campagna. Diciamo che il prezzo è, nella nostra politica di vendita che ci ha sempre premiato, un prezzo personalizzato. Ad personam o ad aziendam, se il latinismo mi si passa. Ci sono soltanto, evidentemente, per quanto riguarda il prezzo, i limiti di occupazione e di prezzo con la televisione sovietica. Ah. Avete assicurato un minimo garantito oppure no? Sì, io devo dare atto che alla trattativa, e approfitto per fare un elogio al dottor Rivolta che ha seguito questa trattativa, io evidentemente al telefono ho seguito passo passo tutti i vari momenti e devo dirle che abbiamo un minimo garantito e che comunque è di nostra grande soddisfazione, però mi sembra che sia di soddisfazione anche dell'Unione Sovietica. Folleva, buonasera. Écoutez, la situation en France, comme vous savez, n'est pas la meilleure pour nous. Pourtant, je m'oblige à ne pas penser en français. Si vous acceptez mon français comme il est actuellement. Eh bien, j'espère de bâtir pour le futur, de monter une dynastie. Et j'espère alors que le fils de mon fils pourra avoir une télévision dans l'Union soviétique. Excusez-moi vraiment l'ironie, mais je pense qu'il n'y a aucune possibilité de faire une prévision pareille. Merci. Io sono Mentens della TV olandese. Vorrei sapere se il PC ha in qualche modo aiutato a ottenere il contratto. Sì. Sì, reputo giustificata la sua domanda, ma devo dire che nonostante noi non abbiamo cattivi rapporti col Partito Comunista Italiano e cerchiamo di averne sempre di migliori, ovviamente anche in questa direzione, ma la trattativa si è svolta su un piano puramente commerciale, senza interventi né da parte del Partito Comunista Italiano, né da parte di altre forze politiche, né da parte di istituzioni politiche di altro genere. Grazie a lei. Buongiorno. Buongiorno. Ma guardi, credo che questa notizia di un'apertura da parte della televisione sovietica alla promozione pubblicitaria sia stata avvertita da diverse altre organizzazioni che vivono nella pubblicità e segnatamente da alcune agenzie pubblicitarie internazionali che hanno partecipato anche a recenti convegni sull'industria e sul marketing organizzati in Unione Sovietica. Credo che ci fosse da parte di alcune entità la volontà di concorrere. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio, di presentare le nostre carte di credito e di giocare anche sulla velocità delle nostre capacità decisionali. Abbiamo alla fine firmato noi e non so dirle in effetti se ci siano dei concorrenti che sono rimasti delusi. Ce ne sono stati, ma credo che le trattative, soprattutto nella fase finale, siano state portate avanti soprattutto con la nostra organizzazione. Sì, qualche agenzia pubblicitaria ambiva a porsi in questo ruolo, ma io credo che il nostro know-how e la nostra articolata presenza e la nostra particolare conoscenza della pubblicità nella televisione abbia premiato il risultato finale. I russi hanno messo dei limiti sul tipo della pubblicità e se la pubblicità si può estendere anche ai paesi extraeuropei. Sì, sono proibiti alcuni generi, credo che sarebbe difficile fare un'equivalenza, ma forse ricorrendo al vecchio detto della pericolosità di Bacco o tabacco, io penso che si possano raggruppare verso questi due tipi di prodotti. Devo ricordare ancora che la prima che sarà soprattutto una pubblicità non di prodotto di consumo, sarà soprattutto una pubblicità istituzionale che riguarderà la figura, l'immagine delle aziende interessate ad aprire rapporti con l'Unione Sovietica, le loro tecnologie industriali ed infine anche i loro prodotti. Signor Berlusconi, ho due domande, sono Dini del Dow Jones, l'agenzia stampa. Primo, ci sono alcuni prodotti che sono vietati in questo contratto? E la seconda, presumo che questi spot sarà prodotto nell'Unione Sovietica. Che contratto avete per produrre queste cose? Sì, dunque, ho già risposto precedentemente che ci sono dei prodotti di consumo, soprattutto quelli che attengono agli alcolici e al fumo, che non sono stati presi in considerazione. E per quanto riguarda la produzione degli spot, la produzione stessa avverrà in Europa, noi dobbiamo inviare il materiale completo, evidentemente la televisione si riserva la possibilità di non trasmettere questo materiale se non lo riterrà idoneo ai principi che informano la sua attività editoriale, dandocene un congruo preavviso prima del giorno di trasmissione. Però tutto quello che riguarda la confezione, l'immagine dei messaggi pubblicitari sarà di pertinenza nostra o delle società dei nostri clienti. Prego. Signor Berlusconi, mi permette andare off limits e farle una domanda sportiva? Io la ringrazio del suo interesse, ma mi sembra che l'avvenimento sia così importante, o almeno noi lo percepiamo come tale, che vi sarei grato se oggi mantenessimo le vostre domande all'interno dell'argomento oggetto della conferenza stampa. No, capisco. La ringrazio. Poi se crede magari fuori ci mettiamo, tanto interessano soltanto a lei e a me queste cose. Dottor Berlusconi, non ha risposto alla seconda domanda. Sì, scusi. Se si tratta anche di pubblicità dei paesi extraeuropei. No, riguarda soltanto le aziende europee. Sono Kobe, Telex, Jugoslavia. Vorrei chiedere se, visto il suo monopolio, nel caso che Gorbaciov le chiederebbe, lei organizzerebbe la sua immagine pubblicitaria anche per le prossime elezioni? Io non credo di avere queste capacità e quindi lo escludo la domanda ed escludo la risposta. Pianificazioni avviate per quanto riguarda gli altri mezzi, ovvero soltanto televisione o anche stampa? No, il nostro contratto ha come oggetto esclusivamente la televisione e quindi non corrispondono alla realtà contrattuale nostra le notizie apparse su alcuni giornali che parlavano anche di stampa, di giornali sovietici. Il nostro contratto attiene esclusivamente i programmi delle queste tre televisioni pansovietiche che io ho citato. Ma la Fininvest, come lei sa, ha delle ambizioni europee in generale. Vogliamo e aspiriamo ad essere una società multimediale e una società multimediale multinazionale. Quindi contiamo di sviluppare molto i nostri settori di comunicazione e di esportare tutti questi settori. Come lei sa, siamo presenti nella carta stampata, siamo presenti nella televisione come broadcasters, siamo presenti nella pubblicità, e questo è il caso, e siamo soprattutto presenti nella produzione e nella distribuzione di programmi. Questo credo che sia un aspetto forse poco illustrato, quello cioè della nostra vocazione a porci come una major company europea, protagonista nella produzione di film da un lato e di opere di fiction dall'altro. Quest'anno abbiamo prodotto, coprodotto ben 70 film, con una percentuale però abbastanza bassa tra quelli destinati al mercato internazionale. Contiamo per il futuro di diminuire forse il numero di questi film, di aumentare tuttavia l'investimento, di aumentare la qualità dei film prodotti e di aumentare il numero di film prodotti in lingua inglese e destinati al mercato internazionale, ivi compreso il mercato americano. E stiamo lavorando in questa direzione. Per quanto riguarda la fiction, abbiamo prodotto quest'anno 140 ore di fiction, abbiamo avuto risultati lusinghieri di ascolto con certe opere e cerchiamo, per quanto riguarda la fiction, di andare col numero maggiore di ore possibile anche qui sul mercato americano e sul mercato internazionale. Credo che questo sia il destino della industria delle immagini in Europa, quella di non chiudersi entro limiti precostituiti che essa stessa si darebbe e di continuare evidentemente a produrre opere che per la loro specificità siano espressione di un determinato paese, di una determinata professionalità e creatività indigena, rivolta quindi a un pubblico che può essere il pubblico di un singolo paese. Ma credo che se la cinematografia europea vorrà continuare ad esistere e svilupparsi, dovrà sempre di più cercare, magari con la ricerca di storie che non siano soltanto italiane o francesi o spagnole, ma che riguardino per esempio avvenimenti che hanno interessato non soltanto l'Europa, ma magari tutta l'umanità, con storie in costume, eccetera, di cercare di produrre fiction destinata all'intero mercato internazionale. Questo è l'unico sistema che consente di fare opere di grande qualità e quindi di grande investimento. E certamente il mercato sovietico, come lei saprà, noi abbiamo già avuto modo di dare anche altri programmi alla televisione sovietica e recentemente è stata trasmessa sulla televisione sovietica Mamma Lucia con la nostra Sofia Loren. Senta, sono Max Mo de Liberation. Volevo sapere se ci sono contatti, sempre in materia di pubblicità alla televisione, con altri paesi del blocco socialista, cioè paesi europei o anche eventualmente la Cina. Sì. Abbiamo contatti con altri paesi che però sono ancora in un momento iniziale. E contiamo evidentemente che questa linea strategica dell'Unione Sovietica possa ricadere a pioggia sulle decisioni degli altri governi e quindi speriamo che ci sia un'apertura anche di questi mercati. Ecco, guardi, noi abbiamo un ufficio che si interessa dello sviluppo delle nostre attività in questi paesi, abbiamo tra l'altro aperto di recente il nostro ufficio di Mosca, siamo in contatto e cerchiamo introduzioni in ciascuno di questi paesi. Dottor Berlusconi, scusi, mi riallaccio alla domanda del collega. Questo accordo segue, se non erro, quello con Telecapo d'Istria, per cui com'è tanta attenzione verso questi, diciamo, i paesi socialisti? No, direi che non c'è un particolare motivo di attenzione o non c'è una strategia politica particolare. Anche se bisogna evidentemente rendersi conto che il destino dell'industria europea è un destino che trarrà un vantaggio enorme dalla possibilità di una cooperazione con tutti gli stati sovietici. E questo nuovo corso di politica economica, questa volontà dichiarata ripetutamente di voler migliorare le condizioni di vita di questi paesi, è certamente qualcosa che va a braccetto con la capacità produttiva e la capacità tecnologica delle industrie occidentali. Per quanto riguarda Telecapodistria, lei credo sappia benissimo che Telecapodistria è una televisione che appartiene allo Stato jugoslavo. Noi abbiamo un contratto per la fornitura di programmi e un contratto per la pubblicità. Però Capodistria diffonde i suoi programmi, oltre che nella sua zona jugoslava, su tutto il territorio italiano. E quindi quella è una pubblicità più che rivolta all'utente jugoslavo, rivolta all'utente italiano. E in questo caso, data la monotematicità della televisione Capodistria attuale, cioè rivolta soprattutto agli avvenimenti di sport, ha un pubblico dal target ben preciso, un pubblico maschile e giovanile. Dottor Berlusconi, mi scusi se magari la domanda sarà fuori dal mondo, però stiamo cercando un po' tutti di capire i contenuti di questo contratto. È possibile, in base appunto al contratto, che un'azienda italiana, lei ha parlato di spot prodotti in Europa, sì. È possibile che un'azienda italiana che abbia già un rapporto privilegiato con l'Unione Sovietica, per esempio la Fiat, produca degli spot in Unione Sovietica e salti, per così dire, questo accordo che voi avete fatto? Sì, non vedo particolari difficoltà a questo. Evidentemente le aziende cercheranno di produrre gli spot dove c'è la migliore qualità artistica e tecnologica e non credo che da parte nostra ci possa essere difficoltà al riguardo. Comunque è un problema che riguarda Publitalia, riguarda il nostro gruppo e non riguarda la televisione sovietica, che non ha posto limiti al riguardo. Allora, considerando che una società italiana, la FATA, era prima società industriale che ha firmato un contratto joint ventures, lei fa parte qualche cordata italiana, vuole dire il suo terreno è stato preparato o l'ha fatto tutto da sé? No, abbiamo intuito, credo, per primi la specificità di questo binario e abbiamo casomai utilizzato il fatto di avere precedenti rapporti con la televisione sovietica, essendo noi stessi una televisione. Credo, oltretutto, che questo contratto favorirà anche la collaborazione delle nostre televisioni con la televisione sovietica e stiamo già avviando una ricerca per vedere quali sono i programmi che noi possiamo offrire alla televisione sovietica e quali sono invece i programmi loro che noi possiamo utilizzare. Ma io credo che davvero il fatto di cominciare a lavorare sia importantissimo. Se si lavora insieme ci si conosce, se ci si conosce ci si stima, se ci si stima nasce l'amicizia e su una base di amicizia si possono aumentare grandemente gli scambi e i rapporti. Quindi io guardo veramente con ottimismo e con fiducia a questa possibilità di collaborazione che ci è stata offerta e spero che sia veramente produttiva, non soltanto di ulteriori scambi nel mondo dell'industria, ma che sia anche produttiva di ulteriori scambi e quindi di un ravvicinamento nel mondo della televisione. Noi abbiamo visto come in effetti questo succeda quando un'azienda lavora in un'altra azienda in un altro paese. Cito l'esempio della Senk, che certamente ha portato in Francia un pezzetto d'Italia e un'attenzione maggiore da parte non dell'élite francese, ma della Francia profonda, della Francia non di Parigi, della Francia della provincia francese, a tutto ciò che avviene in Italia, non soltanto per quanto riguarda il lato politico, ma per quanto riguarda tutto quello che l'Italia di oggi è e rappresenta e che finora credo è stato male rappresentato e male percepito dagli altri paesi europei. Presidente, Ciurilli Media Forum, tra un anno e mezzo ci annuncerà che qualcosa sta arrivando anche in Cina? Lei sa che la televisione cinese si è già aperta all'ipotesi di acquisire pubblicità da parte dei paesi occidentali. Noi, francamente, nonostante il vecchio assioma la Cina è vicina, ci siamo finora tenuti un poco lontani da questa realtà, anche perché la lontananza fisica è notevolissima. mi risulta di un'apertura da parte della televisione cinese nei confronti di un privato, di un operatore privato italiano che è molto conosciuto da quel governo per altre precedenti attività commerciali. Questo operatore proprio ieri ci ha contattato e ci ha detto, ci ha domandato il nostro interesse a occuparci anche di questa sua trattativa che, a quanto ci ha detto ieri, è già condensata in un protocollo di intenti. E proprio la settimana prossima quindi avremo una sessione, la prima sessione con questo operatore e vedremo se c'è anche questa possibilità. Però mi lasci godere di questa opportunità che oggi illustriamo e mi lasci preoccupare dell'organizzazione, dello svolgimento di questa attività che sarà certamente impegnativa. Robbiati. Una domanda a lei e una all'avvocato Dotti, almeno dividiamo. Una è la tecnica di inserimento pubblicitario, hanno accettato la filosofia della TV commerciale, quindi delle interruzioni? No, la tecnica dell'inserimento pubblicitario è di un programma con l'inserimento pubblicitario, cioè praticamente non c'è l'interruzione evidentemente dei programmi, ma c'è un programma preciso che va appunto sulle varie reti con dentro la promozione pubblicitaria, che verrà anzi illustrata da esperti dell'Università Sovietica e poi dipenderà dalla collaborazione che si svilupperà di vedere qual è il modo migliore per presentare questa pubblicità. Ricordiamoci che parliamo a un pubblico che è molto lontano dalla nostra cultura e televisiva e pubblicitaria. Un pubblico, dico ad alta voce delle nostre riflessioni, che vede nella televisione la voce ufficiale del proprio governo e delle proprie istituzioni. Io ricordo quanto alcuni utenti di pubblicità mi hanno raccontato delle prime esperienze di pubblicità sulla televisione italiana. Il messaggio non veniva percepito come pubblicità, ma veniva percepito addirittura come consiglio dell'istituzione televisione di Stato. E quindi c'è da mettere una grande attenzione al riguardo. Addirittura ricordo che il Cavaliere Averna, che ha avuto a un certo punto la possibilità di inserirsi nel famoso carosello che era per chi fosse straniero e non fosse da molti anni residente in Italia, era la trasmissione per eccellenza della pubblicità con dei film che duravano 3 minuti. Ebbene, io vi ricordo questa testimonianza, lui mi disse: io sono stato un'azienda regionale fino a quando non ho avuto 6 spot in carosello. Da quel momento e soltanto da quel momento io sono stato conosciuto nazionalmente, sono diventato un'azienda nazionale e ho avuto credito dalle banche. Quindi io credo che bisognerà rifarsi per capire le problematiche che certamente sorgeranno nell'attuazione di questo contratto, rifarsi a quelle esperienze e ai ricordi precisi che noi di quelle esperienze abbiamo. No, confesso la non volontà mia di mettermi a studiare una lingua straniera, perché purtroppo a 51 anni i circuiti sono chiusi. Si ricorda e si approfondisce quel che si sa in materia di lingue, è difficilissimo percorrere i sentieri della novità. Il gruppo? Ma diciamo che noi non siamo assolutamente in concorrenza col gruppo Murdoch. Il gruppo Murdoch è un gruppo che si segnala soprattutto per la sua presenza nella stampa di 3 continenti e che recentemente è entrato anche nella televisione. Però per quanto riguarda il mercato che è a noi vicino, il nostro mercato, il mercato italiano ed europeo, il gruppo Marco fino ad ora ha una presenza molto limitata in Sky Channel, che come voi sapete fa un ascolto di qualche migliaia di unità di persone. Lista dei mercati dove vendete di più e che posizione occupa attualmente l'Unione Sovietica? No, guardi, le posso dire subito che all'Unione Sovietica abbiamo dato pochissime cose e la cosa più importante è stata l'ultima miniserie che abbiamo coprodotto con Alex Ponti, Mamma Lucia. Non c'è una, la televisione sovietica ha rapporti commerciali con più di 100 televisioni nel mondo, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di news e di documentari. Francamente non posso darle la classifica circa l'entità dei rapporti con queste diverse televisioni. Le posso dire che la televisione sovietica è un grandissimo organismo, il più grande organismo di televisione al mondo. Bene, volevo solo completare la risposta con una cifra che poteva essere interessante per una notazione e che occupa 83.000 persone. Ecco, quindi è di gran lunga il più importante organismo televisivo del mondo. Per quanto ci riguarda, noi vendiamo praticamente a tutte le televisioni, ma la quantità di vendita è piuttosto commisurata alla nostra capacità di vendita. Cioè il mercato della televisione è un mercato caratterizzato da una grande domanda di prodotto. Abbiamo tutte le televisioni del mondo, grande necessità, direi grande fame di prodotto. Quindi è l'unico mercato, probabilmente uno dei pochi mercati, in cui non si corteggia da parte del venditore il compratore, ma è il venditore corteggiato dal compratore, perché per ogni buon programma in ogni paese c'è sempre la volontà di acquisto di tutte le entità televisive operanti in quel paese. Lei ha il suo gruppo una major company, ma le major companies americane hanno degli obblighi antitrust molto forti. Non ritiene che oltre alle intuizioni è stato anche un privilegiato il suo gruppo, non avendo avuto finora nessuna di questo tipo di regolamentazioni? Ritengo esattamente il contrario, che è miracoloso quello che noi siamo riusciti a fare senza l'esistenza di una certezza dovuta a certezza di legge. Vorrei sapere se ho capito bene, il collega ha fatto l'esempio della Fiat, un gruppo industriale che è già presente nell'Unione Sovietica. Può o non può fare pubblicità sulla TV senza passare con la Fininvest? No, per quanto riguarda le fasce di programmazione contenute nel nostro contratto, non può. Altre fasce di programmazione attualmente non sono aperte, abbiamo la prelazione per l'apertura di nuove fasce. D'accordo. E seconda domanda rapida. Questo per quanto riguarda, mi perdoni, i paesi europei. Bene. Seconda domanda. Più o meno, anche se mi consenta soltanto di aggiungere che non c'è nulla di insolito in questo tipo di contratto, perché ogni mezzo, per evitare equivoci, per evitare interferenze, per evitare differenti politiche commerciali, si affida sempre in prevalenza a un'unica concessionaria di pubblicità per una certa fascia di territorio. Più o meno a quale volume d'affari vi aspettate per questo contratto, anche se non è definito, e quale risultato netto aspettate per la Fininvest quest'anno? Grazie. Sì. Per quanto riguarda questa nuova attività, io credo che essendo un mercato totalmente nuovo sarebbe azzardato avanzare qualsiasi previsione. E comunque l'atteggiamento nostro, devo dire che in questa occasione è un atteggiamento rivolto di più all'interesse generale che questa attività speriamo potrà far derivare e anche ad un fatto, se mi consente, di immagine. Quindi l'ultima cosa a cui abbiamo pensato nel perseguire questo traguardo è stata quella del reddito che sarebbe derivato al nostro gruppo da questa attività. Per quanto riguarda il gruppo Fininvest, le posso dare soltanto il nostro budget per quanto riguarda la cifra d'affari aggregata del nostro gruppo, che è di 10.400 miliardi di lire, 1.988. Dottor Berlusconi, vorrei capire, per sintetizzare un po', che cosa vedrà il telespettatore sovietico in termini di pubblicità adesso. Dunque, lei spiegava che ci sarebbero 6 minuti di spot, no. In più 20 minuti con la pubblicità redazionale. No, glielo spiego di nuovo. Se non hai questi spot, evidentemente ci sarà soprattutto la possibilità di illustrare per ogni azienda la propria identità, la propria capacità produttiva e commerciale, le proprie tecnologie industriali o i propri prodotti secondo quello che l'azienda vorrà acquisire. Redazionale, esatto. Allora, la pubblicità redazionale può essere un programma che noi confezioneremo che, per esempio, riguardi un certo tipo di prodotto, segnalando quanti sono le aziende o quali sono i prodotti o un certo numero di prodotti di quel tipo, perché l'interesse primo della industria sovietica è quella di aprirsi alle novità tecnologiche dei paesi occidentali ed europei in particolare. Le ricordo che mentre da noi le fiere campionarie, come la fiera di Milano, cioè le fiere che mostrano tutte le industrie nel loro complesso, che espongono in queste fiere campionarie le novità e che da noi hanno via via minore importanza perché c'è un grande fiorire di fiere specializzate, ecco, in Russia queste fiere campionarie sono oggi il momento principale e più atteso di incontro tra la realtà sovietica e la capacità produttiva estera. Abbiamo noi stessi filmato di recente per una fiera campionaria a Mostra una coda di 1,5 km di visitatori che aspettavano di avere un biglietto d'ingresso a questa fiera. No, lei non ha... No, mi consenta di ritornare sull'argomento. No, non è così. Io ho semplicemente indicato che questa pubblicità, cioè il messaggio pubblicitario, potrà articolarsi o in spot di 30 secondi, o in spot o film, come lei li vuol chiamare, di maggiore durata, sino a una durata massima normale di 6 minuti. Ogni singolo messaggio pubblicitario, in caso di pubblicità redazionale su argomenti che verranno concordati con la televisione sovietica, potremo arrivare anche a filmati di 20 minuti consecutivi. Grazie. Parlando di accordi con gli altri paesi, è vero che le trattative con la Grecia per un primo canale commerciale sono quasi al traguardo? No, guardi, abbiamo trattative da 2 anni con diversi esponenti del mondo industriale ed economico greco e crediamo che quando lo Stato greco deciderà di varare una televisione commerciale noi saremo interpellati da questi gruppi che credo ci chiederanno di partecipare in una quota alle nuove società con l'apporto del nostro know-how per quanto riguarda la tecnica e per quanto riguarda la programmazione e la produzione di programmi e con l'apporto della nostra library di prodotti. Ecco, le ricordo che noi non vendiamo soltanto i prodotti che produciamo o coproduciamo, ma che in molti casi abbiamo acquistato sul mercato internazionale i diritti per tutto quanto riguarda l'Europa. Quindi noi abbiamo, per esempio, le do una cifra che mi ricordo in questo momento, credo che siamo i più importanti detentori, cioè abbiamo la più grande library di programmi, per esempio per quanto riguarda la Francia, dove abbiamo una library che ammonta a quasi 400 miliardi di lire. No, abbiamo una nostra società che detiene questi programmi e che vende i programmi alla SENC e agli altri produttori in Francia. Per quanto riguarda le trattative in Grecia, abbiamo una trattativa che non è ancora una trattativa, sono dei contatti perché ci vuole la certezza dall'altra parte, in particolare con un gruppo editoriale, ma siamo stati contattati da altri numerosi gruppi che intendono verificare questa opportunità quando diventerà realtà concreta. Ed è questa della Grecia praticamente la situazione per quanto riguarda la televisione commerciale che si ha nei paesi europei dove ancora questa televisione non esiste, segnatamente in Spagna, segnatamente in Portogallo, in Svezia, in Olanda, in Inghilterra il panorama è diverso, voi sapete che ci sarà un cambiamento di scenario fra qualche tempo con la riassegnazione delle concessioni per le televisioni regionali, stiamo verificando se per una nostra presenza articolata in tutta Europa valga la pena di partecipare in una di queste televisioni, abbiamo in effetti alcune possibilità che stiamo verificando in questi giorni. Giovanni Branco. Questo cominciamo da marzo, dal primo di settembre. Ecco, la data inserita nel contratto è del primo di settembre. Sono Bracco dell'Agenzia Radiocor. Publitalia è sotto osservazione da parte della Commissione Europea dietro una denuncia di Odeon TV. Come si difende dall'accusa di concorrenza sleale? Lasciamo ai nostri avvocati di formulare le ragioni di difesa. Diciamo che questa accusa a noi è apparsa destituita di ogni fondamento e, se mi consente, addirittura ridicola. No, noi siamo concessionari esclusivamente per quanto riguarda gli stati europei. Quindi le industrie sovietiche, che oggi non fanno ancora pubblicità, non ci risulta siano abilitate per il momento a fare pubblicità a se stesse o ai loro prodotti. Per quanto ci risulta, questo è il primo passo verso un percorso che potrà rivelarsi di grande apertura, ma la cui entità e i cui tempi ci consenta di dirle che non sono nella nostra conoscenza. No, non c'è un tetto, è stato stabilito invece un minimo a cui noi dobbiamo far fronte. Sì, europei e occidentali, i paesi della CE. Dottor Berlusconi. Dove va un programma che contiene la pubblicità? Si ricordi sempre del nostro carosello, per capire in maniera... Sì. No, questo dato non è stato esaminato. Noi abbiamo per queste fasce la quantità massima che noi possiamo portare e quindi è una quantità per una certa fascia di tempo di 35 minuti. Minuti. Sì, però, sì. No, a programma. Cioè ciascuno di questi programmi in cui verrà inserita la pubblicità potrà contenere, trattandosi, lo ricordo, non di pubblicità, no, dobbiamo pensare che non è la pubblicità a spot che interrompe i programmi, che va da un programma in altro, è un programma di promozione. Quindi molto spesso saranno programmi, non saranno i nostri, dobbiamo pensare a una pubblicità verso un mercato che deve completamente aprirsi, quindi una pubblicità che riguarda le aziende, che riguarda i prodotti industriali prima di tutto, non i prodotti di consumo, perché non avrebbe alcun senso promozionare dei prodotti che non sono distribuiti. Dottor Berlusconi, oltre alle fiction e ai programmi pubblicitari, si sta parlando anche di offrire all'Unione Sovietica le partite di calcio, mi riferisco ai recenti accordi con Mendoza per il Real Madrid, le partite spagnole, eccetera. E cosa, questa è un'altra domanda, cosa succederà se un giorno l'azienda di calcio Italia deciderà di esportare le proprie partite in Unione Sovietica, o se l'Unione Sovietica richiedesse le partite italiane? Ma guardi, devo dirle che innanzitutto questo non rientra nelle nostre possibilità, perché come lei sa le società singole di calcio in Italia hanno stipulato un contratto attraverso la Lega che le rappresenta tutte. Questo contratto è con la televisione di Stato italiana, la quale ha i diritti di vendita delle partite in tutto il mondo attraverso la sua collegata SACIS. Quindi le partite italiane già oggi possono essere vendute ove risultino di interesse in tutti i mercati del mondo. No, noi siamo totalmente esclusi da questa possibilità esistendo questo contratto della Lega con la RAI. Posso dire quello della luce? Senta, guardi, no, bisogna pensare che le rilevazioni di ascolto sono un fatto molto avanzato per quanto riguarda appunto il fenomeno della pubblicità e quindi intervengono quando c'è una certa saturazione, una certa scientificità e quando soprattutto c'è la concorrenza, che in questo caso non esiste. Io sono indeciso se raccontarvi un fatto che ci è stato venduto, ma in maniera informale e non certamente ufficiale, e risulta che ci siano state delle prove per vedere quante persone in quel momento guardavano la televisione. E sono state delle prove che peraltro sono state anche le stesse fatte in America ai primordi della televisione oltre 40 anni fa. È stata interrotta la trasmissione televisiva, è stato dato l'annuncio di spegnere la televisione e si è calcolato quanta elettricità in meno veniva consumata nelle centrali elettriche. Ma questo è stato fatto anche in alcuni stati americani. E quindi i fenomeni, come vede, la storia si ripete. Sul campionato spagnolo o europeo? Quell'accordo che ha fatto recentemente con il dottor Mendoza. No, non abbiamo fatto purtroppo nessun accordo. Credo che, essendo nella sede della stampa estera, allora mi permetto di uscire da questo argomento per una sola domanda e per una sola risposta, se non le spiace. Essendomi trovato negli ultimi due anni a occuparmi di una squadra di calcio ed avendo avuto la fortuna di entrare vergine nel settore, voi sapete che chi entra in un nuovo settore probabilmente ha maggiori possibilità o probabilità di vedere le cose di cui questo settore è carente o i difetti del settore. Bene, mi sembra che si sia ancora molto indietro nel mondo del calcio per quanto riguarda lo sfruttamento spettacolare e non solo spettacolare del fenomeno calcio. Abbiamo, per esempio, sul piano del calcio internazionale, delle coppe antiche che risentono di momenti superati con scarse difficoltà di comunicazione addirittura e senza la televisione. Mi riferisco alle coppe internazionali, alla Coppa dei Campioni, alla Coppa delle Coppe, all'UEFA, che vengono giocate ad eliminazione. Questo comporta che una squadra come Real Madrid o come il Milan, che ha un parco giocatori importante e molto costoso, che potrebbe con pochi calciatori in più essere sugli stadi internazionali e giocare un campionato europeo ogni settimana dell'anno, si veda magari eliminata dal torneo stesso la prima partita, come quest'anno è successo a Napoli. Bene, lei pensi qual è il danno economico che il Napoli e tutte le altre squadre che via via sono state eliminate dalle competizioni europee hanno sofferto. La nostra proposta è molto semplice ed è quella di affiancare ai campionati nazionali dei campionati europei un campionato d'Europa che riguardi le squadre più importanti d'Europa, con un criterio di scelta che può essere quello di premiare le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati, come quello della Coppa dei Campioni adesso, o con, come quello di premiare le società più ricche dotate di stadi e di pubblici maggiori in Europa. Potrebbe essere anche sostituita la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe con altrettanti campionati, come nelle varie nazioni esistono campionati di Serie A, di Serie B e di Serie C, così potrebbero esistere in Europa campionati analoghi. I vantaggi per le squadre di calcio sono lapalissiani, si comprendono immediatamente, sono un numero assolutamente maggiore di introiti, ma ci sono dei vantaggi enormi che riguardano gli organi di stampa, tutta la stampa sportiva specializzata per esempio e certamente le pagine sportive di tutti i quotidiani che durante la settimana non sanno cosa inventare per tenere desta l'attenzione e la lettura dei tifosi. A questo aggiungo l'interesse enorme di tutto il sistema televisivo europeo per avere un numero importante di partite che si svolgono durante tutta la settimana e aggiungo anche un interesse Tucur e tra virgolette europeo. Lei pensi come possono aumentare la conoscenza tra la gente d'Europa con dei campionati regolari, quante realtà che non attengono soltanto al calcio, alla squadra di calcio, ma che sono, attengono a intere città, a intere regioni, a interi paesi, che possono venire evidenziate da un rapporto continuativo di interscambio tra squadre che percorrono uno stesso campionato. Io credo che questo sia il futuro. L'ambiente del calcio è un ambiente che vive di vecchi schemi e con protagonisti certe volte piccoli, ma io credo che il futuro sia questo e che sarà soltanto questione di vedere quanto tempo si impiegherà per arrivare a questa realtà, ma sono certo che a questa realtà si arriverà. Mi consenta di non continuare su questo argomento che non interessa probabilmente la grande maggioranza dei giornalisti presenti. Poi glielo confesso da solo fuori. Va bene, mi sembra... Ha venduto altre... Attenzione. Sì. si offre a Mama Lucia, ha venduto anche altre sceneggiate o opere di Rete Italia. Alla televisione Russia, sovietica, sì. No, non ancora. Mama Lucia è stata la nostra prima transazione commerciale, che però, essendo importante il soggetto ed avendo ricevuto un buon ascolto e un buon gradimento da parte della televisione sovietica, spero possa essere il primo di tanti altri prodotti. Vi ringrazio molto per la vostra cortesia e vi auguro buon lavoro.